Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che questa settimana torna sulla possibilità di ridere anche su di una cosa così orribile come il Covid-19, magari per esorcizzare la paura. Ce ne parla il fumettista Claude, che assieme ad un'altra figura storica delle strips italiane, Guido De Maria, ha postato ogni settimana una vignetta su Instagram sulla pandemia. Tutto ciò vorrà diventare un volume da pubblicare nel prossimo futuro. Ai microfoni di Morena Moretti sentiamo Claudio Onesti in arte Claude. Buongiorno Claude, tu in questo periodo insieme a Guido De Maria stai producendo delle bellissime vignette a tema Covid, quindi l'idea, perché è nata, lo possiamo immaginare, però se vuoi raccontarcela. No, abbiamo dato per siamo tutti in quarantena, perché si parla sempre in inglese, lockdown, siamo tutti in quarantena, siamo tutti chiusi in casa, ma già fin dalla primavera scorsa. Abbiamo pensato, come hanno poi fatto anche tanti altri colleghi, che hanno messo fuori delle cose poco alla volta, poi dopo le hanno messe, dopo le hanno raccolte in un volume, e abbiamo pensato di fare questa cosa qui, cioè questa cosa qui di Nick Carter. Sono fumetti, ma non sono fumetti, insomma, perché poi sono vignette, ecco. Cioè, no. Sì, sono vignette che si leggono naturalmente una alla volta. Voi tra l'altro le postate su Instagram. Su Instagram, su Facebook, sì. Io personalmente le mando a tutto il mio contenitore, così, perché io non sono su nessun social. Invece Guido, nonostante sia più grande di te, è molto social. Così, e niente, le mandiamo un po' a tutti quelli che a cui possiamo mandarle, insomma. Ecco, no, devo dire che stanno avendo parecchio riscontro e parecchio successo anche, ecco, cioè, perciò proprio continuiamo così. Teoricamente ne vorremmo fare una barra due alla settimana, ecco. A che numero siamo arrivati di vignette? Siamo arrivati alla 11, perché poi, cioè, noi avevamo cominciato la primavera scorsa, poi abbiamo avuto un blocco novembre-dicembre, insomma, che aveva ripreso il nostro lavoro, ecco. Comunque sono vignette molto gustose e anche con un messaggio. Poi abbiamo messo quella chiocciolina, no? In ognuna, sì. C'è quella chiocciolina in basso a destra, che quella lì l'avevamo messa all'inizio. Solo nelle prime c'è la chiocciolina, dice quella frase: io resto a casa. Era quella famosa frase, sì, che appunto Conte disse a tutti all'inizio, nel primo messaggio di quarantena, no? Di stare in casa, così, io resto a casa, così. Allora lei l'aveva messa così, come, dato che è una casina portatile. Poi abbiamo pensato, ma perché sempre la solita battuta, così non aveva più senso. Allora l'abbiamo messa come chiusura, visto che lì non c'è la chiusura, e l'ultimo chiude la porta, che è la classica frase ricorrente sempre nei filmati di Nick Carter, che lei dà così la battutina finale, come, tipo nell'ultima che abbiamo messo, che si parla del giallo, no? Così lei dice: i gialli io li leggo. Esatto, infatti è meravigliosa, fa delle chiusure appunto proprio straordinarie la chiocciolina, insomma. Sì, sì, sì, no, ma infatti ha parecchio riscontro, ecco, di gradimento, sì. Così, cioè, e quindi poi l'aspirazione sarebbe anche quella di poter pubblicare poi un... Sarebbe soprattutto, diciamolo pure, quella di poterla pubblicare. Quindi una volta... E adesso col fatto di metterlo online così e col contagocce è più un discorso di quasi pubblicitario, diciamo così, ecco. E così, e poi alla fine non ne avremo un quantitativo utile perlomeno per fare almeno un volumetto, così... presumo che un minimo di 40-50 ci devono essere, ecco, perché poi se ne facciamo anche una vignetta a pagina, almeno 40-50 pagine Ma che ci mette anche, non so, qualche pagina di redazionale, qualche dietro le quinte, così, insomma, che diventano 50-60 pagine, ecco, un volumetto. Certo. Claude, ti chiedo l'ultima cosa su questa chiusura, questo confinamento. Lavoratori del tuo campo, chiamiamoli così, quindi tutti i fumettisti, che cosa fanno in questo periodo? Tu sei in contatto con alcuni di loro? Sì, sì, io devo dire che noi, della nostra razza, diciamo i fumettisti, così devo dire che la quarantena l'abbiamo sentita fino a mezzogiorno, si fa per dire, ecco, perché noi siamo sempre stati comunque abituati a essere animali solitari, a lavorare in casa, da soli, a lavorare di sera, di notte, di domenica, di sabato, di festa, perché se devi fare una consegna non c'è festa che tenga. Quindi quando le istituzioni hanno detto state in casa, bisogna lavorare in casa, cioè noi non è cambiato niente praticamente, ecco. Perciò noi l'abbiamo sentito, devo dire, ho sentito anche dai miei colleghi che stavamo parlandone, l'abbiamo sentito chiaramente molto molto meno questo fatto qua, di dover stare chiusi in casa a lavorare. Poi è chiaro che anche a me c'è disturbo il fatto di dover uscire solo quando ce n'è bisogno, uscire con la mascherina, cose del genere, cioè che sono tutte cose che danno fastidio, insomma, alla fine. Però il fatto di stare in casa l'abbiamo sentito meno noi, È così bella l'armonia questa nostra casa nuova, sembra poco ma è un miracolo. Questo giardino non confina, divide solo noi dal mondo, mentre tu bevi con le rondini. Io, tra fiori freschi e viaggi, io sono tornata sempre fortunatamente in tempo per renderti la luna. Che mi dai? Inconsapevole mi dai, senza chiedere mi dai. Arriviamo dove vuoi. Hai qualcosa dentro di te che funziona, che funziona, che funziona. Di una foto e non ti sposti dalle regole. Io tra canzoni e viaggi io sono tornato sempre fortunatamente in tempo per renderti la voglia che mi dai. Ho preferito la tua vita e riesco a farlo quasi mio questo tuo essere difficile. Qualcosa dentro di te che funziona, che funziona, che funziona. Hai qualcosa dentro di te che ripara quando tutto sembra fine. Non dimenticare, non dimenticare che la casa nasce per lasciare fuori il mare. Nuova, in questa nostra casa nuova.

la macelleria messicana della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto e soprattutto l'uccisione di Carlo Giuliani. In seguito a quei fatti, mentre i responsabili delle forze dell'ordine venivano promossi molto prima che il capo della polizia facesse ammenda per la gestione violenta dell'ordine pubblico, 26 attivisti del movimento furono mandati a processo con un'accusa gravissima: devastazione e saccheggio. Un capo di imputazione non più utilizzato da molto tempo e che proprio in seguito a questi fatti di Genova tornò a fare capolino nei procedimenti giudiziari a carico di chi protestava. Per la difesa degli imputati, per dare manforte al team degli avvocati, nacque dunque il supporto legale, un'esperienza che ora, quasi 20 anni di distanza, si racconta attraverso la riedizione di un fumetto assieme a un numero speciale della rivista Zapruder e un documentario. Con Alessandro Canella ascoltiamo le parole di Marina Pagliuzza di supporto legale. Una storia lunga e anche molto complessa che ora appunto viene raccontata attraverso diversi strumenti, quindi un documentario, un fumetto che è già, come dire, stato edito, ma c'è una riedizione, e un numero di una rivista. Raccontaci un po'. Dopo che i processi sono finiti e adesso che in buona parte, anche se non completamente, le persone che erano state coinvolte come imputati hanno quasi tutte terminato la loro incredibile pena, diciamo che per noi è arrivato un po' il momento di mettere un punto a questa esperienza che in qualche modo si deve chiudere o quantomeno trasformare. Abbiamo quindi deciso di raccontarci attraverso alcune cose che avevamo già messo in campo negli anni scorsi, riprendendole in mano e rimaneggiandole, e questo è sicuramente il fumetto, dove si troveranno nuove tavole, nuovi contributi di autori e anche nuovi testi, che esce con Coconino e di cui siamo veramente molto molto molto fieri. Abbiamo anche in ballo questo documentario, che sarà invece una cosa completamente nuova che stiamo costruendo in questo periodo e che racconta proprio la storia di supporto legale fino ad oggi, legandosi poi a quello che è il momento in cui una determinata serie di eventi diventa in qualche modo storia, perché proprio quest'anno, tra l'altro, anche se noi quando abbiamo iniziato a fare questo documentario ancora non sapevamo che fossero così maturi i tempi, quest'anno tutto il materiale processuale diventerà parte dell'archivio Lo Russo Giuliani proprio qua a Bologna, cosa di cui francamente siamo molto contenti, perché ci sembra che sia la sua degna collocazione. Per noi era il momento di fare un attimo il bilancio di quello che abbiamo fatto finora, e lo facciamo così, lo facciamo raccontando la storia dal nostro punto di vista e raccontando una parte di attività e di attivismo che forse è rimasta un po' più silente rispetto ai fatti dei giorni di Genova, proprio diciamo attivi, delle manifestazioni, della violenza della polizia eccetera eccetera, che sono stati raccontati in mille modi. Tutto quello che è venuto dopo invece è rimasto un po' più nascosto, e per noi è il momento di raccontarlo invece. Genova, schiacciata sul mare, sembra cercare respiro al largo verso l'orizzonte. Genova repubblicana di cuore, vento di sale, d'animo forte. Genova che si perde in centro, nei labirintici vecchi carrusi. Parole antiche e nuove, sparate a colpi come d'archibugi. Genova quella giornata di luglio, d'un caldo torrido d'Africa nera, sfera di sole a piombo, rombo di gente tesa atmosfera, nero blu uniforme, precisi gli ordini, sudore, rabbia, facce scudi da oppliti, l'odio di dentro come una scabbia. Ma poco più lontano un pensionato ed un vecchio cane guardavano un aeroplano che lento andava macchiando il mare. Una voce spezzava l'urlare statico dei bambini, panni distesi al sole come una beffa dentro ai giardini.